La cavalla storna di Giovanni Pascoli. Nella torre il silenzio era già alto, sussurravano i pioppi del Rio Salto, i cavalli normanni alle lor poste frangean la biada con rumor di croste. Là in fondo la cavalla era selvaggia, nata tra i pini sulla salsa spiaggia, che nelle froghe avea del mar gli spruzzi ancora e gli urli negli orecchi aguzzi, con sulla greppia un gomito da essa era mia madre e le dicea sommessa: o cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Tu capivi il suo cenno ed il suo detto. Egli ha lasciato un figlio giovinetto, il primo dotto tra miei figli e figlie, e la sua mano non toccò mai briglie. Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, tu dai retta alla sua piccola mano, tu che hai nel cuore la marina brulla, tu dai retta alla sua voce fanciulla. La cavalla volgea la scarna testa verso mia madre, che dicea più mesta: o cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Lo so, che tu l'amavi forte, con lui c'eri tu sola e la sua morte. Oh, nata in selve tra l'ondata e il vento, tu tenesti nel cuore il tuo spavento, sentendo lasso nella bocca il morso, nel cuor veloce tu premesti il corso, adagio seguitasti la tua via, perché facesse in pace l'agonia. La scarna lunga testa era d'accanto al dolce viso di mia madre in pianto. Oh cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Oh, due parole egli dove pur dire, e tu capisci ma non sai ridire. Tu con le briglie sciolte tra le zampe, con dentro gli occhi il fuoco delle vampe, con negli orecchi l'eco degli scoppi, seguitasti la tua via tra gli alti pioppi. Lo riportavi tra il morir del sole, perché udissimo noi le sue parole. Stava attenta la lunga testa fiera. Mia madre l'abbracciò sulla criniera. Oh, cavallina, cavallina storna, portavi a casa sua chi non ritorna. A me, chi non ritornerà più mai. Tu fosti buona, ma parlar non sai. Tu non sai, poverina, altrin non osa. Ma tu devi dirmi una cosa. Tu l'hai veduto, l'uomo che l'uccise. Esso te qui, nelle pupille fise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome. E tu facenno, Dio ti insegni come. Ora i cavalli non frangean la biada, dormian sognando il bianco della strada. La paglia non battean con l'unghie vuote, dormian sognando il rullo delle ruote. Mia madre alzò nel gran silenzio un dito, disse un nome. Sono alto un nitrito. Di Giovanni Pascoli, La cavalla storna, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0 International, BYNCND.